Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, prosegue la nostra panoramica settimanale sui consumi ai tempi del coronavirus. L'impegno, la solidarietà, ma anche le idee, le strategie per migliorare la nostra quotidianità, dalla spesa al supermercato o nei negozi di quartiere, alle consegne a domicilio, dagli acquisti online al food delivery, fino ai contenuti e ai servizi delle tante piattaforme digitali. Vi ricordiamo molte le trovate sul sito Solidarietà Digitale, promosso dal governo, rivolto a cittadini e aziende. Iniziamo la puntata, come sempre in queste settimane, con la riflessione in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Il consumautore. Vita sociale, lavoro, viaggi, shopping, tempo libero, molti studi ci stanno già dicendo che nulla tornerà come prima. Questa emergenza segnerà le nostre abitudini quotidiane con un prima e un dopo, ma come cambieranno i consumi una volta attenuata la crisi? Che cosa erediteremo dall'emergenza? Francesco Morace, ben trovato. Buonasera Maria Luisa e ai nostri radioascoltatori. Ma allora la prima cosa immediata, ci sarà un gran bisogno di muoversi. Questo rimanere per molte settimane proprio chiusi, quasi come un animale in gabbia, e ci porterà anche con molto entusiasmo a riabbracciare le attività, diciamo, più muscolari, il movimento, e quindi ad esempio un mondo dell'abbigliamento sportivo, che è uno di quelli che ha sofferto di più in queste ultime settimane, esploderà. Anche perché non dimentichiamoci che si calcola che ciascuno di noi avrà da smaltire dai 2 ai 4 kg. Quindi movimento ritrovato, e è facile immaginarlo, socialità ritrovata quando potremo. Questo cosa comporterà? Socialità ritrovata, le due cose potranno in qualche modo anche convergere. Immaginiamo le biciclettate con la famiglia o con gli amici che verranno riscoperte, ma sicuramente anche la convivialità legata ad esempio alla ristorazione. Non dimentichiamoci che noi avremo una Pasqua in quarantena, e quindi appena si potrà questo verrà recuperato in una società come quella italiana, dove la convivialità a tavola è fondamentale. Un ritorno addirittura anche al lusso, magari accessori di lusso, anche per rivendicare una sorta di vendetta, no, contro il virus, oltre che naturalmente uno scambio di doni tra le persone che in questi mesi hanno festeggiato magari i loro compleanni ma non hanno potuto ricevere i regali dagli amici. Altro settore molto penalizzato ovviamente in questo periodo, la mobilità, l'ospitalità. Che cosa si prevede per quei settori? Ecco, questo è interessante. Sappiamo che credo in assoluto il settore che soffrirà e sta soffrendo di più è proprio quello del turismo, è praticamente ormai azzerato. Immaginiamo che rimarrà una diffidenza nei confronti dei viaggi all'estero, che come sappiamo gli italiani hanno per molto tempo, da molti anni, premiato, e ci sarà invece un grande ritorno alla riscoperta di territori anche vicini, quindi turismo locale in tutte le forme. Ci sarà una sorta di ritorno solidale anche sui nostri territori, magari anche proprio Brescia, Bergamo, cioè le aree dove si è sofferto di più, tutto il Veneto. Ecco, ci immaginiamo che ci sia una comprensione degli italiani nel provare a premiare chi ha sofferto di più. Mi manca un chilo di pace integrale e due etti di comprensione, è un cartone d'amore a lunga conservazione. grande distribuzione in prima linea. Abbiamo sottolineato più volte l'impegno di chi in questa situazione ci garantisce la possibilità di fare la spesa. Alla situazione dei supermercati abbiamo dedicato anche il reportage in onda questa mattina, lo trovate sul sito di Radio 24. Ma a darci una mano ci sono anche i negozi di quartiere, molti dal panificio alla macelleria si occupano della consegna a domicilio. Il portale Io Resto a Casa.delivery li segnala per codice di avviamento postale. E poi ci sono i GAS, i gruppi di acquisto solidale, come quelli della piattaforma L'Alveare, che dice sì, che consegnano la spesa contadina a domicilio. Simona Cannataro. Innanzitutto abbiamo subito un incremento incredibile della richiesta, cosa che ha messo a dura prova un sistema che si fonda, come l'Alberto che dice sì, su piccole comunità di persone che comprano direttamente da piccole realtà agricole. I nostri volumi non possono essere quelli della grande distribuzione, però in questo periodo ci è arrivata una richiesta che è assolutamente massiva. Stiamo cercando di arrivare a quante più persone possibili, però facendo un grande sforzo di riorganizzazione del sistema. Nell'alveare che dice sì ci sono diversi gruppi d'acquisto. Ogni gruppo d'acquisto è un alveare che ha i suoi produttori che settimanalmente mettono in catalogo quelli che sono i loro prodotti e aprono una vendita. Quello che sta succedendo in questo periodo particolare è che le vendite vanno abbastanza velocemente in sold out, soprattutto lì dove gli alveari, come sta succedendo, si stanno riorganizzando per consegnare le spese a domicilio alle persone. Quindi un altro tipo di riorganizzazione che sta avendo il nostro sistema è quello di passare da una dimensione conviviale, perché normalmente il ritiro della spesa in alveare è un momento in cui si incontrano le persone con i produttori, c'è uno scambio, c'è un mercatino effimero che si ricrea, è un momento molto bello, a una riorganizzazione interna necessaria per venire incontro alle esigenze nuove di sicurezza e di igiene che abbiamo, che porta sempre più alveari. Adesso sono già quasi una cinquantina sui 180 alveari che ci sono in Italia, che si stanno organizzando per consegnare le spese a domicilio. Ci sono tanti produttori che sono iscritti alla nostra rete ma che non erano legati a degli alveari, che in questo momento per esempio si sono riattivati, tra virgolette, quindi riusciamo a far lavorare, ed è quello il nostro obiettivo, sempre più piccole realtà agricole. Quindi se io, produttore 1, ho una piccola produzione, mi unisco con il produttore 2, riusciamo ad arrivare a più persone possibili. Quello che mi auguro io, sinceramente, è che passata la bufera, cosa che mi auguro avvenga presto, ci si ricordi di questi sforzi che stiamo facendo, che ci si ricordi che ci sono dei contadini che con le loro piccole produzioni garantiscono alle persone di mangiare cibi a filiera corta, chilometro zero, molto sani, non trattati, eccetera, eccetera, e che insomma questa cosa rimanga nelle abitudini di sempre più italiani anche nel dopo. Noi stiamo lavorando anche per avere delle partnership temporanee con dei corrieri che ci aiutino. Per esempio c'è il caso di Firenze, dove abbiamo una bella rete di alveari in cui abbiamo una collaborazione con Ciclologica, praticamente dei corrieri in bici. Un'altra partnership in questo periodo che ci piace tanto e che speriamo di poter replicare, che è ad Asti con la Croce Rossa. Quindi ad Asti la vendita dell'alveare online e poi le spese le distribuisce casa per casa la Croce Rossa di zona. Ricordiamo in chiusura i numeri dell'alveare che dice sì, ricordiamo il contesto internazionale in cui nasce e i numeri italiani. Allora, l'alveare che dice sì è una rete europea nata in Francia. In Italia, noi siamo nati nel 2015, a oggi ci sono 146.000 iscritti, un parco produttori più o meno di 2.000 piccole aziende agricole e 181 alveari aperti. Cambiano le abitudini, dicevamo in apertura, cambiano inevitabilmente le passioni e gli svaghi. Sapete, una delle cose che stanno riscoprendo gli italiani in questa nuova dimensione di convivenza domestica? I giochi da tavolo. Lo rivelano le ricerche online monitorate dal comparatore prezzi trovaprezzi.it. Marco Sidonio. In un periodo in cui le persone rimangono molto di più a casa, quindi si dedicano molto di più alla famiglia e alla socialità in casa, abbiamo visto un cambiamento totale delle ricerche. In particolare è stato interessante investigare l'aspetto ludico di queste ricerche, cioè molte di queste ricerche nel periodo si sono concentrate in categorie come videogiochi oppure giochi da tavolo, che storicamente sono tra le categorie più di nicchia, ecco, sul mercato online. Invece adesso vedo che hanno preso un forte rilievo. Ecco, citiamo un po' di numeri perché sono veramente rilevanti per quanto riguarda il gioco analogico, diciamo così. Nel mondo dei giochi da tavola abbiamo avuto un raddoppio della ricerca fondamentalmente, cioè un 102% in più delle ricerche nel periodo tra il 7 e il 26 di marzo. Questo riguarda soprattutto i giochi da tavolo, diciamo, i prodotti quelli più che noi chiamiamo da sala giochi, quindi il ping pong, il biliardo. Invece è molto interessante vedere quello che è accaduto nel mondo dei puzzle, dove abbiamo una crescita enorme che va oltre il 990%. Abbiamo raggiunto le 30.000 ricerche nel periodo esaminato. Appunto, vedo i giochi tradizionali, Monopoli, Cluedo. Assolutamente, sembrerebbe proprio essere quello il trend. Quindi torniamo sul Monopoly nelle sue varie declinazioni, con anche le ultime edizioni dell'electronic banking, dove si possono effettivamente fare anche pagamenti con carte di credito e post. Poi abbiamo Cluedo, abbiamo Indovina Chi, abbiamo l'Allegro Chirurgo e abbiamo anche il grande classico Risico, che torna sempre in testa alle classifiche in questi casi. Avete avuto modo di profilare anche un po' gli autori delle ricerche e quindi gli eventuali acquirenti? Certo, quello che abbiamo fatto su TrovaPrezzo è stato definire le fasce di età, e i risultati sono molto interessanti, perché laddove vediamo i più giovani essere sempre più interessati al mondo dei videogiochi, invece sono le persone nella fascia di età media, diciamo un po' più mature, che è quella tra i 35 e i 44 anni, che sono più interessati ai prodotti dei giochi da tavolo classici. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché abbiamo ancora tante storie da raccontarvi tra pochissimo. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Anche la cucina tradizionale si mette al servizio dell'emergenza coronavirus, vive della convivialità tutta italiana, quella ora è inevitabilmente congelata, ma il network delle Cesarine, famoso in tutto il mondo, celebrato più di una volta dal New York Times, ha deciso di metterci a tavola virtualmente tutti insieme all'insegna delle ricette e dei piatti tramandati di generazione in generazione. Ci racconta tutto Davide Maggi. Le Cesarine è un network di un restaurant che ormai da un paio d'anni lavora principalmente con turisti, in primis americani, ma poi da tutte le parti del mondo, e ospitano appunto persone nelle proprie case per fare corsi di cucina o cene, e dove la parte del cibo è una parte importante, perché sono tutte appunto case disposte in tutta Italia con una grande componente di cucina regionale, alla quale poi viene affiancato il racconto da parte della Cesarina delle proprie ricette di famiglia, della cultura del cibo di ogni città, eccetera. Purtroppo per ovvi motivi in questo momento non possiamo svolgere questo tipo di attività e di eventi. Abbiamo pensato, in accordo con tutte le Cesarine, di aiutare il paese, l'Italia, anche chi ci segue dall'estero, nel momento in cui tutti sono costretti a stare in casa, nel essere intrattenuti da noi come Cesarine su concorsi di cucina online che abbiamo pubblicato sul nostro sito ogni giorno alle 6:30, quindi basta andare sul sito e iscriversi, e così possiamo intrattenere le persone ma anche le famiglie con corsi di cucina legati alle torte, ai biscotti, eccetera. E quindi insomma invitiamo chi ci segue a prepararsi con un po' di ingredienti a seconda di quella che è l'iniziativa in palinsesto, e poi di seguirci. Diamo le indicazioni per il sito? cesarine.com, cioè sia il sito in italiano che il sito in inglese. Quante sono le Cesarine in Italia e dove sono? Sono 1200 e sono presenti in tutta Italia, quindi copriamo 120 città, e anche i corsi che proponiamo poi vengono presi dalle singole regioni, quindi c'è Milano, Bologna, Roma, eccetera. La concentrazione di Cesarine maggiore sono su Bologna, Roma, la Toscana, Milano, i laghi, la costiera amalfitana e così via. E il nostro, diciamo, impegno è quello che ogni Cesarina propone solo cibo locale della propria città, della propria regione, tant'è che siamo anche comunità slow food, per questo, quindi ogni cesarina prepara solo i piatti di famiglia e del posto. C'è il profilo tipo di una cesarina? Sono 80% donne, intanto possono andare dai 35 ai 65-70 anni. Sono a volte anche coppie, ci sono anche uomini, alcuni lo fanno come famiglia, alcuni sono single, dipende. Sono tutte senz'altro persone che hanno 2/3 inclinazioni. La prima è di essere molto bravi a cucinare, la seconda è di aver voglia di ospitare persone in casa, ma in questo momento di fermo lavoro e anche di raccontarsi con gli altri. E la terza di avere tutto un segreto culinario di famiglia. Anche la solidarietà di quartiere si sta facendo sentire in questa emergenza, dai flash mob sui balconi all'aiuto per la spesa per chi è anziano o in isolamento. Ecco che cosa ci ha raccontato Amedeo Galano, Head of Community per l'Italia di Nextdoor, l'app per vicini di casa. Quello che abbiamo visto è che nonostante queste iniziative non possono più svolgersi offline, comunque la solidarietà si è espressa in tantissimi modi, quali per esempio iniziative come i flash mobs dai balconi che tante persone hanno visto, o applausi di quartiere, o addirittura anche degli aperitivi a distanza, in modo che facciamo rimanere vivo lo spirito sociale che ci contraddistingue come italiani. Si sono creati dei veri e propri gruppi di solidarietà per persone disponibili a fare la spesa, magari per gli anziani, addirittura medici disponibili per visite a domicilio, è così? Quello che abbiamo visto chiaramente è mutato nel corso del tempo, in quanto poi chiaramente, come ben sapete, ci sono stati diversi decreti per cui all'inizio la solidarietà si è espressa in modo fisico, quindi con dei gruppi che sono stati creati sull'applicazione, gruppi che sono stati lanciati da noi come feature qualche settimana fa, in cui magari mamme di quartiere o giovani ragazzi, persone che hanno la disponibilità di poter svolgere questi piccoli lavoretti, si sono incontrati e hanno deciso di appunto collaborare su questo punto di vista. Ci sono stati creati più di 100 ormai gruppi di solidarietà, a ridosso di Milano tantissimi, e hai detto un bellissimo esempio, sia alcuni medici che appunto hanno detto che erano disponibili per chiamate, anche al telefono, addirittura per prelievi ematici. Questo ci ha portato a sviluppare anche una nuova feature, che è nata giusto qualche giorno fa, che è la mappa della solidarietà. Questo vuol dire che non solo le persone possono offrire il proprio aiuto con un post, quindi semplicemente dicendo vi do la mano o cerco aiuto, ma possono farlo in modo interattivo con una mappa. Quindi tu puoi entrare e puoi vedere dei puntini verdi nella mappa del tuo quartiere e inviare un messaggio al vicino che si è reso disponibile per dare una mano e che aggiungerà una descrizione di cosa può fare, da prendere delle medicine ma anche una semplice chiamata per fare un check-in giornaliero se stai bene. Immagina per esempio una persona che si trova malata sola a casa, deve essere una situazione abbastanza pesante e quantomeno una chiamata al giorno può cambiarti veramente la giornata. Voi state vigilando anche sul fronte fake news? Non siamo una piattaforma di informazione come natura, però siamo a conoscenza che l'informazione circola nelle nostre social network. Quindi quello che abbiamo fatto è rafforzare la nostra policy sulla misinformazione. Di conseguenza abbiamo aggiunto la possibilità di segnalare dei contenuti e il nostro customer support deciderà o meno se rimuovere il contenuto o meno. Questo è importante perché ci permette, uno, di controllare l'informazione, ma anche comportamenti scorretti, come per esempio vendere delle mascherine a prezzi spropositati o gel per le mani, che abbiamo impedito da 2 settimane. Preoccupa in queste ore il fenomeno fake news a chi non è capitato di ricevere via WhatsApp, per esempio, un video dai contenuti più o meno sospetti. David Puente è uno dei più importanti debunker, cioè smontatori di bufale in Italia. Ecco che cosa ci ha detto. Nelle ultime settimane siamo stati bombardati appunto da audio, video su WhatsApp di ogni genere. Nell'ultimo periodo vedo che stiamo tornando un po' a quello del clima politico, quindi circolano falsi documenti, circolano teorie un po' strane dicendo il Conte lo sapeva, il governo sapeva tutto dell'emergenza già a gennaio. Si sta creando un po' tutto quest'area, anche un po' di complottismo. E a proposito di complottismo, siamo arrivati al punto più dolente. Mentre magari in passato diceva, vabbè, dai, lascia che parlino di scie chimiche, lascia che parlino di cavolate, il problema è che adesso un po' tutta quella rete di complottisti, ci sarà anche la discussione sui vaccini, perché si parla del vaccino, no? Quindi anche gli antivaccinisti, quelli che contestano il 5G, uniscili tutti e crei il mega complotto, no? Che appunto ci vogliono controllare, e poi arriva il genio che invita a uscire di casa e a destabilizzare quello che è l'ordine pubblico per ribellarsi a questa tirannia da parte del governo Conte. E purtroppo c'è gente che in giro va e si fa pure il video, che va per strada, si organizzano, insomma è una deriva un po' pericolosa che magari prima potevamo un po' riderci sopra per le cavolate che dicevano, ma in questo momento c'è molto poco da ridere. E poi ricordiamo anche che condividere anche solo con un amico per sapere cosa ne pensa un video che ha dei contenuti che ci insospettiscono, è meglio fermarsi prima e non farlo, perché si alimenta inconsapevolmente o meno una catena. Questo sì, anzi è anche un invito quello che viene fatto molto simile dagli stessi operatori sanitari. Cioè, avete idea di quante volte io devo chiamare l'ospedale Sacco, l'ospedale di Guarda, l'ospedale di Parma e così via per chiedere informazioni su quanto viene diffuso attraverso WhatsApp, eccetera, con solamente appunto la curiosità o comunque la paura che hanno gli utenti di fronte a una notizia che circola sui social? La risposta è sempre la stessa, loro mi rispondono gentilmente perché vogliono contrastare questo fenomeno, però allo stesso tempo dicono, per favore, dite agli utenti che noi vogliamo lavorare in pace, già abbiamo il nostro lavoro per contrastare, per curare le persone che sono colpite dal coronavirus, se ci fate perdere tempo anche su questo non ci state aiutando, quindi in qualche modo vediamo di essere responsabili tutti quanti noi per non incentivare ancora di più il lavoro delle persone che stanno lottando in prima linea. Diamo un po' di riferimenti pratici agli ascoltatori, dove trovano il tuo lavoro, quali sono le fonti affidabili che ci aiutano a capire che di fake news si tratta, quindi smontate punto per punto così da capire che sono assolutamente infondate. Allora, io sono responsabile del settore fact checking di Open, quindi trovate nel sito di open.online la testata di Enrico Mentana, diciamo l'area tematica che abbiamo creato apposta per raccogliere tutte le verifiche che abbiamo fatto, divise anche per categorie, quindi bufale mediche, disinformazione in generale, quelle che circolano su WhatsApp, insomma in qualche modo potete un po' navigare e cercare. Poi abbiamo anche un numero WhatsApp a disposizione che potete contattare per inviarci i vostri audio o inviarci video, articoli, cose che magari vi destano dubbio. E poi pian piano con le segnalazioni verificheremo per quanto è possibile, perché il lavoro è tantissimo. Poi ovviamente ci sono i siti istituzionali, c'è il sito dell'Istituto Sanitario Nazionale di Sanità, c'è il Ministero della Salute, c'è il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che già anche attraverso infografiche e anche tutorial video stanno cercando di spiegare e di arginare il fenomeno della disinformazione sul coronavirus. Quindi il mio invito è quello di andare a seguire questi punti di riferimento in un periodo in cui forse un po' troppe informazioni circolano in giro che creano ulteriore confusione e anche a volte anche timori. Ecco, quindi vediamo un attimo di tranquillizzarci, di seguire quello che ci dicono le fonti ufficiali che stanno già operando per contrastare il virus. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, stay safe and stay strong. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.